Il terzo anello ad alta voce. I Buddenbrock di Thomas Mann. Il signor Permanedere si allogò nella Mengstrasse, fece colazione il giorno seguente con Thomas Buddenbrock e con Gerda, e il terzo giorno, che era un giovedì, conobbe Justus Kröger e sua moglie, le signorine Buddenbrock della Via Larga, che lo trovarono irresistibilmente comico, Sesemi Weichbrot, che lo trattò con severità, la povera Clotilde e la piccola Erika, alla quale porse un cartoccio di caramelle. Era di un invincibile buon umore, nonostante i suoi gravi sospiri, che non significavano niente e pareva provenissero da un eccessivo benessere. Continuava a fumare la pipa, a parlare il suo strano linguaggio, a seguire le sue consuetudini sedentarie, per cui dopo i pasti rimaneva a lungo comodamente al suo posto, fumando, bevendo e chiacchierando, e per quanto fosse venuto ad aggiungere alla vita tranquilla del vecchio palazzo un tono del tutto nuovo ed estraneo, per quanto il suo aspetto avesse recato in quell'ambiente una stonatura di stile, tuttavia non intralciò nessuna delle consuetudini che vi regnavano. In città la sua figura si fece notare rapidamente, e nelle grandi famiglie si discorreva con curiosità dell'ospite bavarese di casa Buddenbrock, ma egli non aveva conoscenze né in quelle famiglie né in borsa, e poiché la stagione era troppo avanzata e quasi tutti erano sulle mosse di recarsi ai bagni, il console rinunciò a introdurre Permanedere in società. Personalmente si dedicava all'ospite con viva attenzione. Le tendine verdi nella camera della signora Grüllich al secondo piano erano leggermente mosse dal tiepido respiro di una limpida notte di giugno. Toni era coricata, la bella testa affondata nei cuscini morbidi orlati di larghi volanti di merletto, le mani giunte sulla trapunta. Si sollevò un poco, sospirando, e si sorresse la testa con la mano. «Ida! Senti, fammi il piacere, vieni un po' qua!» «Non posso dormire. Devo pensare a tante cose che la testa mi fa male. Vedi, mi pare di avere la febbre e poi mi dà noia lo stomaco.» «Come, come, Toni, la febbre? Fammi sentire, cara, faremo una piccola compressa.» «Grazie, Ida. Sento che mi fa bene.» «Oh, cara vecchia Ida, siediti un momento qui con me sulla sponda del letto. Capisci? Non posso fare a meno di pensare continuamente a domani. Non so che cosa fare. Ho una gran confusione in testa.» Ida si era seduta accanto a lei. «Credi che farà la domanda domani?» «Certamente, Ida. Non c'è dubbio. Non si lascerà scappare l'occasione. Ti ricordi, Clara? Anche lei durante una gita, così. Io potrei evitarlo, capisci? Ma se fa la domanda, che cosa devo rispondere, Ida?» «Gli vuoi bene, Toni? Dillo onestamente.» «Oh sì, cara. Mentirei se dicessi il contrario. Non è un bell'uomo, ma questo non conta nella vita. È profondamente buono e, credi pure, incapace di commettere una cattiveria. Quando penso a Grüllich, Dio mio, diceva sempre di essere attivo e svelto e mascherava perfidamente le sue mariolerie. Permanedere, vedi, non è così. È, si direbbe, troppo amante delle comodità e prende la vita troppo alla buona perché possa essere cattivo. A Monaco, infatti, in mezzo ai suoi pari, fra persone che erano come lui e parlavano come lui, lo amavo addirittura. Tanto mi sembrava buono e cordiale. A Monaco, Toni, e qui invece?» «Già, qui, Ida. Hai capito che cosa intendo. Qui, tolto dal suo ambiente vero e proprio, in mezzo a persone che sono tutte diverse da lui, più rigide, più dignitose, più ambiziose, qui dirò quasi che spesso mi vergogno per lui. Sì, te lo confesso, Ida, proprio onestamente. Mi vergogno per lui, benché sia probabilmente una mia cattiveria.» «Va là, Toni. Con lui dovrai ben vivere a Monaco. Questo è vero. Ma ora viene il fidanzamento che bisognerà festeggiare. E se dovessi continuare a vergognarmi davanti alla famiglia, ai Kistenmacher, ai Möllendorf e a tutti gli altri perché è così poco signore. Ida, mi sento girare la testa. Fammi il piacere, rinnova la compressa. Infine, ci si deve arrivare. Riprese poi a dire con un respiro di sollievo per la compressa fredda. Quel che conta in primo luogo è che io trovi da sistemarmi e non debba gironzolare più da divorziata. In fin dei conti, tutti questi anni ho sempre desiderato di rimettere piede nella vita, perché qui con la mamma mi annoio e Dio mi punisca se questo è peccato, ma ho solo 30 anni e mi sento giovane. Quella notte Tony fece anche altre considerazioni e ripeté alcune volte: infine ci si deve pur arrivare. E poi dormì 5 ore d'un sonno placido e profondo. I festeggiamenti per le nozze si svolsero esattamente come Tony aveva aspettato e desiderato. Non si fece alcun chiasso. «Rinunciamo alle solennità», disse il console. «Ora ti sposi di nuovo e in fondo è come se tu non avessi mai cessato di essere sposata». Si spedirono soltanto poche partecipazioni di fidanzamento. Madame Grülich, però, aveva pensato lei perché una arrivasse nelle mani di Julchen Möllendorf, nata Hagenström. Si fece a meno del viaggio di nozze perché per Maneder aborriva un simile trambusto. E Toni, ritornata da poco dalla villeggiatura estiva, considerava già fin troppo lungo il viaggio fino a Monaco. E la cerimonia nuziale che ebbe per scenario non più il vestibolo a colonne, ma la chiesa di Santa Maria, si svolse nell'intimità della famiglia. Tony portò dignitosamente i fiori di arancio invece del mirto, e il pastore Kölling tenne la predica raccomandando la moderazione con voce un po' più debole di allora, ma ancora con espressioni energiche. Christian venne da Amburgo, molto elegante e un po' malazzato, ma allegro. Disse che i suoi affari con Burmester erano tip-top, dichiarò che Clotilde e lui si sarebbero sposati probabilmente solo lassù, ben inteso ciascuno per conto proprio, e arrivò in chiesa con ritardo perché aveva fatto una capatina al circolo. Le signorine Budenbrock della Via Larga si espressero così: «Beh, speriamo che questa volta duri!» Ma erano molto spiacevoli i dubbi che tutti nutrivano sulla sincerità di quella loro speranza. Soltanto quando la coppia per Maneder era già a Monaco da alcune settimane, il console Budenbrock aveva potuto svincolare la dote di sua sorella fissata nel testamento, vale a dire i 51.000 marchi. E questa somma, cambiata in fiorini, era poi pervenuta regolarmente nelle mani del signor Permaneder, il quale l'aveva depositata in modo sicuro e redditizio. Ma poi, senza esitare, senza arrossire, aveva detto a sua moglie: «Tonia», così la chiamava, «io ne avrei abbastanza, di più non abbiamo bisogno, mi son sempre logorato, sacripante, e ora voglio stare in pace. Affittiamo il pian terreno e il secondo piano, qui abbiamo la nostra brava abitazione, possiamo permetterci un arrosto di maiale e non occorre che si stia a sfoggiare il lusso, e la sera io posso andare all'Hofbräuhaus. Non pretendo di essere un creso, e non ho voglia di ammucchiare denaro, voglio la mia tranquillità. Domani si chiude bottega e mi ritiro a vita privata. Per Maneder! Aveva esclamato lei, ed era la prima volta che lo diceva con quel particolare suono gutturale con cui nominava di solito il signor Grünlich. Egli si era limitato a risponderle: «Va là, sta zitta!» E poi era seguita una lite di quelle che, così presto e così violente, non possono fare a meno di scuotere per sempre la felicità coniugale. Tutto ciò era stato comunicato con semplicità alla signora Bodenbrock, ma dalle lettere che la signora Permaneder aveva scritto al fratello appariva tutto il dolore che ne aveva provato. Povera Toni, le sue peggiori previsioni erano state superate di molto. Eppure bisognava mandarla giù. E la sua famiglia capì dalle lettere che cedeva le armi, rassegnata, e viveva una vita monotona con suo marito e con Erika, che frequentava la scuola, e badava all'andamento della casa, e manteneva rapporti amichevoli con gli inquilini che si erano trovati per il pian terreno e per il secondo piano. Passavano i giorni, ma ogni gioia della nuova esistenza di Toni era scomparsa da quando Permaneder, appena ricevuta la dote, si era ritirato a vita privata. Mancavano le speranze. Ella non avrebbe mai potuto annunciare ai suoi un passo avanti, una conquista. La vita che faceva, senza preoccupazioni, ma limitata e così poco signorile, sarebbe continuata così, senza mutamenti, sino alla fine. E questo le era un peso sul cuore. Dalle sue lettere appariva chiaramente che quel suo stato d'animo, così poco sollevato, le impediva di abituarsi all'ambiente meridionale. Passavano i giorni, ma poi parve che volesse pur venire un momento felice, e precisamente quello che si aspettava invano nella Via Larga e nella Mengstrasse. Infatti, poco dopo il capodanno del 1859, la speranza che Toni dovesse essere madre per la seconda volta divenne certezza. La gioia vibrava, per dir così, nelle sue lettere, tutte piene di frasi allegre, infantili e solenni, come non erano state da parecchio tempo. Sua madre, che prescindendo dai viaggi estivi sempre più limitati ormai alle rive del Baltico, non desiderava viaggiare, espresse il suo rammarico di dover essere lontana dalla figlia in quei momenti e le mandò solo per iscritto gli auguri e l'assicurazione dell'assistenza divina. Tom, invece, e Gerda annunciarono la loro venuta per il battesimo e Toni era tutta piena di progetti per un ricevimento signorile. Povera Toni, quel ricevimento doveva essere infinitamente triste. E quel battesimo che le era apparso come una festa deliziosa con fiori, confetti e cioccolata, non doveva aver luogo affatto, poiché la creatura, una bambina, venne al mondo soltanto per chiudere la sua esistenza dopo un misero quarto d'ora, durante il quale il medico si sforzò invano di mettere in moto il piccolo inetto organismo. Arrivando a Monaco, il console Bodenbrock e sua moglie trovarono che Toni stessa non era fuori pericolo. Era molto più affranta della prima volta e per alcuni giorni il suo stomaco, che già prima aveva sofferto qualche volta di debolezza nervosa, rifiutò quasi ogni cibo. Tuttavia guarì e i Bodenbrock poterono partire tranquillizzati a questo riguardo. ma d'altro canto non senza preoccupazioni, poiché avevano potuto osservare bene, e specialmente all'attenzione del console non era sfuggito che nemmeno il dolore comune aveva potuto avvicinare i due coniugi. Non che Permaneder fosse stato insensibile, era rimasto sinceramente scosso. Alla vista della creatura inanimata, grosse lacrime gli erano uscite dagli occhi enfiati, scorrendo giù per le guance gonfie nelle frange dei baffi, e più volte aveva sospirato: «È proprio una croce, ahimè!» Da quei giorni le lettere di Tony furono pervase d'un tono disperato e persino di accusa. «Oh, mamma!» scriveva. «Quanti dolori addosso a me! Prima Grillick e il fallimento, poi Permaneder ritirato a vita privata e poi la creatura morta. Come mi sono meritata tante sciagure!» Leggendo quelle effusioni, il console non poteva trattenere un sorriso perché, nonostante il dolore che vi era espresso, sentiva fra le righe un orgoglio quasi buffo e sapeva che Tony Buddenbrook, sia come Madame Grünlich, sia come Madame Permaneder, rimaneva sempre una bambina che accoglieva le esperienze di donna adulta quasi con incredulità, ma sempre con serietà infantile, con infantile importanza e soprattutto con infantile capacità di resistenza. Ella non capiva come si fosse meritata le sue sciagure. Benché infatti si prendesse gioco della grande religiosità di sua madre, lei stessa ne era così pervasa da credere fermamente ai meriti e alla giustizia su questa terra. Povera Tony, la morte della sua seconda creatura non era né l'ultima né la più dura botta che doveva colpirla. Quando il 1859 volgeva alla fine, avvenne un fatto spaventevole. Era verso la fine di novembre, un freddo giorno d'autunno. Verso mezzogiorno, quando il console Thomas entrò nella stanza della colazione, trovò sua madre con gli occhiali sul naso, curva sopra un foglio. «Tom!» disse guardandolo in viso e allontanando il foglio con tutte e due le mani quasi per nasconderlo. «Non spaventarti! Un fatto spiacevole! Non capisco! Viene da Berlino! Deve essere successo qualcosa!» «Dimmi!» esclamò lui brevemente. Era un telegramma e diceva: «Non spaventatevi. Vengo a volta di corriere con Erika. Tutto finito. Vostra infelice Anthony.» Dopo un po' sua madre osò osservare: «Che si tratti di Permaneder?» Egli alzò le spalle senza guardarla. Nell'uscire, con la mano sulla maniglia, disse: «Sì, mamma. Dobbiamo aspettarla. E poiché ritengo che non ti piomberà in casa di notte, arriverà probabilmente domani. Desidero essere avvertito subito.» L'indomani era una giornata come la precedente. freddo, nebbia e vento. Dietro il lucido sportello di ferro battuto, la stufa scoppiettava. La vecchia signora aveva un tremito e guardava dalla finestra appena sentiva un rumore di ruote. Poi, verso le 4, ecco che effettivamente laggiù si era fermata una carrozza e già qualcuno saliva le scale. La signora Permaneder portava un mantello guarnito di pelliccia e un cappellino di feltro col velo. Era molto pallida e stravolta. Aveva gli occhi arrossati e il labbro superiore le tremava come quando da bambina aveva pianto. Sollevò le braccia, le lasciò ricadere e cadde in ginocchio davanti a sua madre, nascondendo il viso tra le pieghe del vestito e singhiozzando amaramente. Pareva che a quel modo si fosse precipitata dritta dritta da Monaco senza prender fiato e, giunta al termine della fuga, stesse lì affranta ma finalmente salva. Sua madre tacque un istante. «Tony», disse poi con dolce rimprovero, «figlia mia, che cosa è successo?» Ma bisognava armarsi di pazienza, perché ci volle parecchio prima che la domanda ottenesse risposta. «Mamma», sospirò la signora Permaneder, «mamma», e si fermò lì. «È un uomo abietto, un uomo abietto!» Più in là di questa parola energica, la signora Permaneder non arrivava. Sembrava ne fosse interamente dominata, e pronunciandola premeva più forte il viso in grembo a sua madre, stringendo persino il pugno. «Alludi a tuo marito?» domandò la vecchia signora dopo una pausa. «So che questo pensiero non dovrebbe venirmi, ma non mi rimane altro. Permaneder ti ha fatto del male. Hai motivo di lagnarti di lui?» «Babette!» singhiozzò la signora Permaneder. «Babette?» ripeté la madre. Verso la mezzanotte, tra il 24 e il 25 di quel mese, Madame Permaneder, che durante il giorno aveva sofferto di disturbi nervosi allo stomaco e si era addormentata molto tardi, si era riscossa dal suo sonno leggero. L'aveva destata un rumore continuato che veniva dalla scala, un rumore misterioso, malamente represso, nel quale si potevano distinguere lo scricchiolio dei gradini, un tossicchiare e ridere, parole di rifiuto soffocate e uno strano ansimare gorgogliante. Impossibile dubitare della natura di quel rumore. La signora Permaneder, ancora assonnata, l'aveva appena percepito e già aveva compreso di che cosa si trattava e aveva sentito il sangue rifluire dalle guance al cuore che si era contratto e aveva continuato a pulsare con palpiti gravi e opprimenti. Per un lungo crudele minuto era rimasta come stordita, come paralizzata sui guanciali. Ma poi, siccome quel rumore impudente non cessava, aveva acceso la candela con le dita tremanti, era scesa dal letto, presa dalla disperazione, dalla collera e dallo schifo, aveva spalancato la porta e in pantofole e con la candela in mano era corsa verso la scala che saliva direttamente dalla porta di casa al primo piano. Là, sugli ultimi gradini di quella medesima scala, le si era offerta in tutta la sua concretezza la scena che, all'udire quel rumore non equivoco, aveva già visto con la mente davanti agli occhi spalancati dal terrore dalla camera da letto. Era una zuffa, una lotta proibita e indecente fra la cuoca Babette e il signor Permaneder. Alla comparsa di Antonì, Babette aveva gridato «Gesù Maria!» Permaneder aveva ripetuto «Gesù Maria!» e l'aveva lasciata. E mentre la ragazza si era abilmente squagliata in un baleno, egli era rimasto davanti a sua moglie con le braccia penzoloni, la testa penzoloni, i baffi penzoloni, e aveva balbettato una delle sue frasi particolarmente insulse. «Roba da togliere il fiato! È proprio una croce!» Quando poi aveva osato alzare gli occhi, sua moglie non c'era più. L'aveva ritrovata in camera, mezzo seduta, mezzo coricata sul letto, mentre andava ripetendo fra singhiozzi disperati la parola «Vergogna!».